Sabato 25 maggio, NBT Sound System Techno Party. Dai, regà, che Benefit Palestri si è occupato. E allora ricominciamo dalle fondamenta. Techno Aria, NBT, Electro Aria, Master, Roboterie, Music Terapie, in Sala Rossa. Proiezione dei documentari autoprodotti sul movimento dei rave parties, videomapping e visual show a cura di On Cut Studio, performance aeree, giocoleria, musica, stand area e infopoint. Tutto questo sabato 25 maggio all'OA Agrobax, via della Vasca Navale 6. Segui la campagna di autorecupero dell'ex ACEA, laboratorioabitare.noblogs.org. Dai, è forte, ragazzi!